No. Giura. Come mai? Senza pintura? No. Perché tipo c'era l'arancione, sono passato io, mentre stavo passando è scattato il rosso. Mi ha beccato un pieno. Quanto? Aspetta. Subito sbirri c'erano. 114. E punti? E ne sono venuto lì? 6 punti. Puttana vacca, te l'avevi dietro che è entrato di merda. Ma non la fare più la strada. No, no, con la macchinetta. A giugno. Ma non la fare più con la strada. Venire a giugno da, da Viareggio. Hai capito? Non la fare più la strada. Che cazzo la fai a fare? Comunque una volta la in casa, sono lavorato sotto al sole, qui destra e sinistra, ma ti giuro, fa tipo più 5 ore di scuola. Sì, ma sei scherzare. Una scuola è proprio impossibile. A me viene la piangere. Impossibile. Io se mi dovevo svegliare la mattina alle 7. E pensare che dovevo stare dentro lì fino a luna, cazzo, erano, guarda che il professore dà un peso, porco di... L'Alfieri era le medie, te quando dicevi vado all'Alfieri, il professore era un peso proprio, me le note le pigliavo a brancate, andavo a qua 4-5 note, quante materie c'erano? 5? Pigliavo di campana. L'estate mi facevo i miei tre sono mesi freschi a lavorare. Andavo con Ernestino, con Ernestino a portare le bombole, a giocare la legna su per il forno, con le cariole piene di zeppe di legno. Ma ero fantetto, tipo mio fratello, uscì con le cariole piene di legno. Venivo giù e lei mi dava 40.000 lire al giorno. Fantetto. Dopo ho iniziato a lavorare con Marietto a Milano con suo zio. Cazzo, lì erano soldi. 1.600.000, 1.700.000, venivo a qua, non c'avevo niente, avevo solo lo scooter. Cioè, basta. Andavo in giro, di ok, spendevo l'impossibile. Mi compravo, cioè te lo giuro, Ale, non per dire, per niente, ma 16-17, sì, io ho iniziato a lavorare, te lo giuro, ho finito la scuola, ho 31 anni, io da quando ho 15 anni, ho sempre lavorato a regola, sempre, ho 31, mai lavorato, ci credi che io non ho mai lavorato? Io 2 anni di marchette, mai, sempre a regola. Io sì, troppo. Sì. Io ho un mese. Però ti dico, quando ero in Beto, prendevo lo stipendio, io ho 2 sorelle, magari il sabato andavamo in giro, dicevo, toh, mia sorella per dire, ti vai in giro, vai, davo 50 euro, 100 euro, che cazzo me ne fregava, cioè, capito? Non c'avevo, mo magari ho la macchina, assicurazione, questo e quell'altro, che, capisci? La donna, andavo in betto, sì, buono. Andavo, mi compravo da vestire, di campa, cioè ogni mese mi compravo per dire, cosa ne so, 2 paia di scarpe, un paio di pantaloni, 2 magliette, vai un po' mo, ma ci ora? A comprarti 2 paia di scarpe, un paio di pantaloni e 2 magliette. Ma fa la spesa. No, per dirti, 50 euro di spesa gli te, ti dai fuori lo sacchi. Moglie, sai che ti inquisci. Una volta io per dire, quando ero bimbetto che andavo in canniccia, io uscivo con 50.000 lire. Andavo a mangiare fuori. Andavo in canniccia. Quando uscivo dalla canniccia andavo al Bonnie and Clyde, panino e a ca e mi rimaneva quei 10-15 mila lire. Facciamo con 50 euro. Cioè in canniccia. Ma la canniccia non c'è più. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Che bello di quello di ieri. Cosa ha fatto? Presentare. Ho fatto la ma te non te lo dice che Dio cane fresco? La settimana li mette Dio cane in fresco dopo si riceve. Ah, e io Dio cane in ivernazione. Finisco il giovedì. Perché si usa, è troppo avanti per me.